La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'articolo 89 disciplina la controfirma ministeriale. Infatti, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. A una prima lettura può non sembrare chiaro il significato di questa disposizione costituzionale, che invece serve a sottolineare la neutralità del potere presidenziale. Cioè, tutti gli atti del Presidente devono essere controfirmati, quindi serve la firma del ministro proponente o del ministro competente. In questo modo, le responsabilità giuridica e politica vengono assunte dal ministro competente e o proponente, mentre al Presidente resta solo la titolarità politica dell'atto. La Costituzione è chiarissima nello stabilire che nessun atto del Presidente sia valido senza controfirma e quindi ci fa capire che devono essere controfirmati tutti gli atti possibili. Cosa resta escluso nella prassi? Restano esclusi gli atti compiuti da privato cittadino e, ad esempio, gli atti orali, cioè quando il Presidente interviene in maniera orale per esprimere le proprie opinioni, non è necessaria la controfirma. Il punto divenne rilevante sotto la presidenza Cossiga perché il Presidente Cossiga, nella fase terminale della sua presidenza, cominciò a rilasciare le cosiddette esternazioni. Cioè fu un presidente che interveniva sui temi più vari della vita comune, anche esprimendo opinioni politicamente molto significative e talora scomode. Ecco allora che ci si pose il problema di un'eventuale assunzione di responsabilità ministeriale con una controfirma di quegli atti, ma erano atti impossibili da controfirmare proprio perché erano esternazioni date solo oralmente. Restano esenti da controfirma anche gli atti personalissimi del Presidente della Repubblica, come ad esempio le dimissioni o alcuni messaggi che può inviare a capi di Stato estero. Caso famoso nella storia fu un messaggio inviato da Pertini al leader sovietico Brezhnev che non venne controfirmato perché venne visto come un atto personalissimo del Presidente.